No. Ma K, cosa hai fatto? Non posso ripeterlo, non posso dirlo. Ma guarda che comunque il fresco fa bene. Il fresco fa bene. Ma credo asilo. Sì, fresco adesso. Fresco, sì, fresco, come il ghiaccio nella schiena. Come il ghiaccio nella schiena. Non è come? Proprio ghiaccio, non è proprio la schiena. E non è proprio nella comunque, schiena, va bene. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. Un saluto da Drago. Ecco, parliamo di default. Come parliamo di default? Sì, adesso una parola. Di default parliamo di default. È una parola di moda, default. Sì, è vero, è vero. Solo sì, che è un'accezione un po' strana. È cambiato il significato. Sì, perché quando era attribuita, diciamo, ai computer, ai sistemi operativi, dicevi, insomma, è default, quindi va tutto sì, bene. Oppure anche, non so, questa cosa la facciamo di default, sì, che non era molto elegante, però è una cosa che si invece adesso parlare di default, insomma, tutti si terrorizzano, perché il default è in realtà che cosa? È il fallimento, di uno stato. Quando non puoi più pagare. Ma allora, è il fallimento del computer? Cioè, non capisco questa cosa. Se qualcuno di voi ci vuole illuminare sulla parola default, lo faccia chiamando allo 0246524495 e lasciate il vostro messaggio sulla nostra segreteria telefonica. Messaggi come questo. Se non hai voglia di parlare, non ti posso biasimare. Ma le caccole del naso tu ci devi fare caso. Voglio solo scalcolarmi. Wow. K, essere il padre di 150 bambini deve essere una sensazione vertiginosa. Sì. Ti vengono le vertigini. A te non capiterà, Drago, stai tranquillo. Però negli Stati Uniti c'è un donatore anonimo che ha scoperto di aver proprio 150 figli nati dal suo seme. Ah, dal suo seme. 150, sì. No, è diverso essere musulmano per 150 mogli. Vabbè, no? Certo che è molto diverso. Però 150 figli, eh? Sì, cosa? 150. Vabbè, figli, ma mica ti vogliono bene. Cioè, non è che li conosco. Adesso lui cosa vuole? Li vuol conoscere tutti, invitarli darsi, a Natale. Ma dai, Drago, 150. Che vengano a voglia. Però adesso sai che c'è un bel problema. Perché tutti hanno paura che si verifichino dei casi di incesto involontario. Perché 150 persone che abitano tutte in un'area delimitata e che non sanno di essere figli dello stesso padre possono anche innamorarsi. E poi può succedere, non so, nascita di malattie rarissime, che è quello che succede quando c'è quando c'è un individuo che sparge un po' troppo i suoi geni, diciamo, in giro. Possono succedere queste cose qua. Però quindi, scusami, pensare di aver preso il posto di 150 mariti, quello sì che fa girare la testa. Come 150 mariti? Sì, pensare a 150 donne fecondate tutte dal tuo seme. Ma cosa vuol dire? Ma capito? Dai, Drago, ma scusa. Pensa ai figli, cosa pensi alle donne? Ma 150 tutte. Che cittito, dai, ma stai andando tutte fuori in un tema. Secchio, ma con dai, l'uova sopra. Sei come il cuoco di South Park, tu. Una prostituta ti amerà, non importa chi tu sia, ci potete giurar. È così, ragazzuoli! Ma una prostituta non serve, questo non incassa. Per restare devi pagarla per andare. E ora, bambini, ricreazione! Bambino Alberto! Sì, scusate un attimo, devo fare una telefonata. Ma vabbè, ma proprio durante l'intervista, qui sono tempi radiofonici. Finisco un attimo. Pronto? C'è Freddy, per favore? Sì. Freddy, sono il bambino Alberto. No, signor, sono un bambino, non chiamarmi signor. Allora, per domani dovresti prepararmi, allora, una porzione di puntarelle. Cos'è? Il ristorante cinese? E un fritto piemontese. Ah no, non è il ristorante. No. Ok, così. No, contorno no. No, aspetta un attimo, ma... Gildo. Tu cosa vuoi? Oh. Tu hai qualcosa da mangiare? Ah sì, ma tanto ci frega il telefono. Ma al bambino Alberto. Vabbè, niente. Cos'è? Bambino Alberto. Ok, allora domani. Basta. Grazie, dai. Freddy. Fa Freddy, okay. Vabbè. Eccomi, scusate. Cos'è? Un ristorante cinese? Chi stai chiamando? No, è Freddy, alla mensa. Freddy, alla Freddy mensa. Freddy è il nuovo cameriere della mensa. Ah, perché c'è un cameriere? Ma non no, lui adesso lì fa l'addetto tipo bidello. Però lui prima faceva il cameriere in un ristorante, no? Cos'è, messicano, signor? No, è pakistano. Pakistano. Però dice sempre signor, signor. Vabbè, è un classico. Noi siamo bambini. Sono abituato. Vabbè, non importa, è un modo di dire, no? Però scusa, io non ho capito una cosa. Tu prima hai ordinato, cos'hai ordinato? Fritto misto piemontese, puntarelle. Fritto misto piemontese. Questo Freddy è un cameriere o un cuoco? No, lui è un cameriere. Ma quindi come fa a cucinare i piatti un cameriere? Tu gli ordini? Lui però li porta, Sì, li porta, ma li cucina lo chef, quindi devi parlare con lo chef, forse. Infatti, se vuoi. Perché, guarda che poi in cucina non fanno mica tutte queste cose buone. Allora ci dirò qualcosa. Sì. Aspetta che chiedo bene, poi vi dico. Ma di nuovo? Lui chiede, sì. Freddy? Sì, sono io, sono il bambino Alberto. Senti, io ho una domanda. Se tu sei cameriere, chi è che cucina i piatti che mi porti e io mangio? A tu. Cioè, tu mi vuoi dire, ascoltate che tu vai in cucina e prepari i piatti per me. E i cuochi non ti dicono niente. Lo fai di nascosto, lo fai di nascosto. Ma come fai? Cos'è? Ok. Sto spiegando adesso. Vabbè, grazie, Allora dopo, ciao Freddy. Ciao Freddy. Allora? Lui che cucina, no? Cucina di nascosto. Come fa? Si fa a cucinare di nascosto? Allora, me l'ha spiegato, ma non ho capito niente. Vabbè, ma che Freddy pakistano è arrivato da 2 settimane. Vabbè, ma scusa, è come non hai capito niente? Qualcosa, dimmi qualche parola, magari ricostruiamo. Ma parlava indiano! Ma indiano indio o urdu? Ma non so. No, niente, allora niente. Che l'indiano non esiste, cioè o l'indio o l'urdo, capito? Sì. Però non importa. L'India è grande, no? Allora, scusate. Per l'Italia esiste l'italiano, no? Sì. E per l'India ci sarà l'indiano. Ma no. No, guarda, si parlano molte lingue in India perché ti stavo dicendo, è un continente, proprio una terra grandissima, quindi vabbè. Comunque io, Freddy, precisamente non so da dove venga. È dal Pakistan. E poi alla fine, ma chi se ne frega? No? Infatti. Allora, stavamo parlando delle puntarelle. Sì, in parte. E voi? Poi le puntarelle, no? Roba laziale. Sì, e voi? Tito, bravo! Ma quale Beniturgo? Qua lì c'è anche il Tito. Ma dai, ma io non ho mica capito. Neanch'io. Allora, il cameriere pakistano che cucina per il bambino Alberto, ma non è che in realtà è tutta un'invenzione come Gildo? Non esiste. Questa roba dell'invenzione di Gildo, ci vediamo dopo. Cioè, Freddy, potete vederlo in mensa tutti i giorni, no? Andate lì, date un'occhiata, è piccolotto, rotondetto, c'è una specie di pizzetto, è un po' lucido, no? Sì. È opaco ma lucido, opaco. In faccia. Vabbè, dai, ma sono i pakistani. Altro che Gildo, questo qui è... Come altro che Gildo? Ah, allora ammetti che Gildo non esiste. No, volevo dire che mica come Gildo fisicamente, vabbè, niente, no? Niente, niente, dai, vabbè. Ma io non ho capito una cosa, tu mangi lì tutte queste cose buone davanti agli altri. Sì, io sono un fesso io. No, ma scusate, ma no, lui me li incarta con la stagnola, fa come fanno in America, no? Ho capito. Poi me lo mangio dopo, no? Dove? E lo mangio nel gabinetto delle femmine, di nascosto. Ma come nel gabinetto? Vabbè, ma è delle femmine, Ma perché? Fai che schifo, scusa. Mangi nel gabinetto, vabbè che le femmine sono più pulite, però nel gabinetto... Ma no, ma con delle femmine è un'altra cosa, e cambia tra maschi e femmine, Ma non cambia niente, ma quante stupidaggini dici adesso, mangiare in un gabinetto? Vabbè, senti, io mangio lì perché ho bisogno di un posto dove non mi vedano, no? Sì. Ma che casini fai solo per non mangiare i finocchi cotti? Il cameriere che cucina di nascosto, tu che mangi di nascosto, tutto di nascosto. Vorrei vedere voi. Ma cosa? Ho i finocchi cotti o le puntarelle, ma scusa. E poi io, scusate, ho una vita segreta, una vita mia. Sì, super. E a me piace avere una vita riservata, segreta quasi. Forse è una vita immaginaria più che riservata e segreta. Allora con questa storia dell'immaginario? Con il tuo amico Gildo. Allora, eccolo qua. Devo chiamare Freddy dopo, no? Però fa un po' pena quando parla da solo così. Ma devi dirmi cosa vuoi da mangiare. Io mi stai prendendo il brasato al Barolo. Brasato? Al Barolo. Eh no, ma tu cosa vuoi? Barolo. Il Barolo... Barolo! No, capito, ma cosa dico a Freddy? Io ho brasato al Barolo e... E Barolo! Vabbè! Non mangi niente? Digiuno? Perché il brasato è una porzione solo per me. Per me? No, io ho ordinato un brasato al Barolo, no? È il mio brasato, lo mangio io? Lo mangio io! No, è il mio! Allora, questa storia! Allora, abbiamo capito? Abbiamo chi? Qui se c'è qualcuno che capisce sono io. Nuovo corso di scrittura creativa di Chiedo Asilo. Adesso offriamo agli ascoltatori la possibilità di scrivere il testo di una canzone. Non i soliti racconti, raccontini, che è poi quello che si insegna sempre. Siamo alla radio, cantiamo le canzoni. Giusto, facciamo il corso di scrittura di canzoni creativa dalla parte del testo, perché la musica è un po' una cosa soggettiva. Il titolo lo diamo, il titolo è Gildo virgola Gildo. Quindi Gildo. La canzone, insomma, si può appoggiare a questa guida che abbiamo fatto. La metrica non è da rispettare in maniera filologica, ma insomma dai, Gildo, così. Conoscete il personaggio, scrivete voi il testo. Ecco qui la musica. Non è tanto facile. Arriva, devono diventare delle parole. Possono anche diventare meno di quelle. E arriva alla fine che dice Gildo, vedi? E poi c'è la tosse, quindi qui potete anche parlare. Anche non tossire, esatto. Gildo. Poi? tu non esisti. Na, na, na, na, tipo Gildo, Gildo, sei l'amico per me. Capito? Va bene, quindi questa è la canzone sulla quale comporre le parole. La potrete trovare anche, non so, su internet, sul sito di Chiedo Asilo, nel sito di Radio 24. E poi cercheremo anche di renderla in qualche maniera disponibile su Facebook. Alberto! Bravo Alberto, bravo amico Alberto, mi piace così, vai avanti. Ti ascolto il piacere, amico. Ciao, ciao, ciao Alberto. Questo qui è uno scoop però, perché questo era Vasco. Era sicuramente Vasco che telefonava sulla nostra segreteria per fare i complimenti al bambino Alberto. Ma come, rimandiamolo, è proprio lui. Ciao Alberto! Senti, Bravo Alberto, bravo amico Alberto, mi piace così, vai avanti. Ti ascolto il piacere, amico. Ciao. Lui, ciao, ciao, ciao. Sì, è un po' più vecchio di Vasco. Ma no, ma come Vasco? Più vecchio di Vasco, impossibile. Impossibile.